Davvero, sto a casa con un chilo d'arba. La mia piccola negra ti lascia per terra. Pieno di banconote sporche per terra. Devo alzare tanti soldi da fare una guerra. Scherzi con la dark, pessima scelta. Torni a casa tutto sporco di sangue e merda. Mettiamo il tuo nome sulla black agenda. I fra vogliono imparare a cucinare meth. Sta merda non è per l'Italia, no. Def Jam, lei dice sono un poeta, sì. Mos Def, fumo fiori del male, Butler. Ti sei troppo poca roba, chiudi bottega. Zitto idiota, come in biblioteca. C'ha una tipa, c'ha la faccia da pantera. Fissala negli occhi, ti trasformi in pietra. Il mio unico obiettivo è fottere il pianeta. Fottere il pianeta, sì. Parlo con i morti. L'ho detto quello che ho visto, era scombatta. Chi che basso ti prende in pieno la costola. Tu non vuoi farti un giro su questa giostra. DPG alto mare, luna rossa. Sto versando Xanax, goccia dopo goccia. È un vero massacro, non vedo l'ora di uccidere sti rapper per uccidere la noia. Un cazzo, sarebbero morti comunque. Dal polo gang, figli del diavolo. Talking, messing, popping, tag, nigga, you ain't pop shit. Talking about a 100 bottles, nigga, you ain't pop shit. How you talk down the clips, nigga, you ain't shot shit. Spending money on these hoes, nigga, you ain't fuck shit. Talking, messing, popping, tag, nigga, you ain't pop shit. Talking about a 100 bottles, nigga, you ain't pop shit. How you talk down the clips, nigga, you ain't shot shit. Spending money on these hoes, nigga, you ain't fuck shit. Hey. Shit. Nike, terra battuta, Jolovic, succo di pera, Dre Sporting. Testa d'acciaio, Gundam, 747, kamikaze, Boeing. Apro la scena Broadway, taglio le teste, boia. Hai fatto brutti sogni, erba, chimica ammoniaca in gola. Visione notturna, graffi sulla schiena, flippato un po' troppo gotica. Mangio le tue renne, sei re Natale, attacco il tuo rene renale colica. Vista merdi per UFO, la tipa si droga un po' troppo euforica. Si è fatta da sola, spero me lo dica. Dal polo ricetta, penso di azepina. Hai perso la vita, non trovi una cura. La cerchi, tu pensi che ce ne sia una. Sei perso in un limbo, bangers il piccolo. Nato dal parto del sole e la luna. Ho fatto un bel colpo, colpo di fulmine. Serenato colpo di fortuna. Sto alto come Giove e Saturno. I figli del buio pronti a farti un buco. Dark, dark, dark. Dark.